Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. Sta arrivando, anzi è già arrivato, parliamo del fotovoltaico a film sottile o anche fotovoltaico di seconda generazione. La previsione condivisa da gran parte degli esperti è che soppianterà gradualmente il silicio cristallino, monopolicristallino usato fin qui per confezionare i moduli fotovoltaici. Cerchiamo quindi di capire quali vantaggi ha, quali sono i limiti e le applicazioni. Ne parliamo con Federico Frattini, ricercatore dell'Energy Strategy Group del Politecnico di Milano. Buonasera Frattini. Buonasera a lei e ai radioascoltatori. Allora, intanto che cosa si intende per film sottile? Le celle fotovoltaiche a film sottile si basano proprio su un principio costruttivo diverso rispetto alle celle tradizionali a silicio mono o policristallino. Sono sostanzialmente realizzate depositando su un supporto, che può essere di vetro, metallico oppure plastico, una serie di strati di materiale. Abbiamo un conduttore metallico inferiore su cui è depositato uno strato molto sottile, nell'ordine di 1-2 micron di spessore, millesimi di millimetro, assolutamente, di materiale semiconduttore, che può essere nelle applicazioni più comuni e più utilizzate silicio amorfo, telluro di cadmio oppure il cosiddetto CIGS, diseleniuro di indio, gallio e rame. Sopra D'accordo. Questo strato, che è di materiale appunto semiconduttore, viene depositato uno strato di buffer e quindi un contatto trasparente superiore, grazie al quale appunto l'energia elettrica viene generata e trasmessa. Quindi è una tecnologia completamente diversa rispetto alle celle tradizionali, che prevedono invece il taglio di sottili fette di silicio purificato, i cosiddetti wafer di silicio, che hanno uno spessore intorno ai 120-140 micron, quindi molto più alto, certo, rispetto al materiale semiconduttore depositato nelle celle a film sottile, che sono poi sottoposte ad un processo di drogaggio e quindi assemblate in moduli di diverse dimensioni. Quindi diciamo che c'è un vantaggio in termini di processo industriale una volta che appunto il film sottile verrà prodotto in grandi quantità. Assolutamente sì, diciamo che il principale vantaggio di queste celle di seconda generazione è il loro costo inferiore. Oggi un modulo a film sottile può costare tra 1,40 e 1,50 dollari a watt contro gli 1,7-1,8 dollari a watt delle tecnologie tradizionali. Però questa differenza è destinata aumentare sensibilmente negli anni, dato che le tecnologie tradizionali sono più mature, certo, quindi gli spazi di riduzione di costi sono quasi nulli, insomma. Assolutamente. Sì. Ecco, questo minor costo deriva da due cose. La prima è quella di cui parlava anche lei, il fatto che il processo industriale delle celle a film sottile è completamente diverso, ricorda in qualche modo quello dell'industria della stampa. Questo permette un maggior grado di automazione e quindi un forte contenimento dei costi quando si raggiungono significativi livelli di scala. E c'è poi un secondo motivo, cioè che in questa tecnologia si utilizza molto meno materiale semiconduttore, in particolare meno silicio, proprio perché lo strato di materiale attivo è proprio più sottile, molto più sottile, poi perché se ne scarta di meno. Nelle celle mono e policristalline teniamo conto che i processi produttivi attuali portano a livelli di scarti di materia prima nell'ordine del 40-50%. Questo perché bisogna proprio fare a fette, come dire, una specie di cilindro di silicio di silicio, e questo comporta grandi sprechi. Ecco, quali sono le applicazioni? Ovvio che più o meno sono le stesse, però ci sono delle applicazioni nelle quali il film sottile è destinato decisamente a soppiantare, insomma, il silicio. Sì, direi che già oggi il film sottile è una tecnologia disponibile commercialmente. Ecco, giusto, è importante dirlo. Su oltre i 20 gigawatt di potenza installata a livello mondiale, già più del 15% è realizzata con film sottile. Detto questo, esistono due ambiti di applicazione molto concreti che però anche in ottica prospettica sono i più promettenti. Il primo è quello, se si vuole, delle grandi centrali fotovoltaiche a terra, quindi impianti di taglia superiore a alcuni megawatt che sono realizzati in aree dove tipicamente non ci sono problemi di spazio e quindi è possibile controbilanciare la minore efficienza che attualmente hanno le celle fotovoltaiche a film sottile aumentando l'estensione del campo, certo, fotovoltaico. Quindi magari in Italia diventa difficile perché la superficie non è disponibile, non è a buon prezzo, però ci sono paesi, pensiamo ai deserti, pensiamo alla Cina, Spagna, agli Stati Uniti, certo, in cui invece invece un secondo, diciamo, campo di applicazione che è molto più, diciamo così, adatto alle caratteristiche dell'Italia, e quello su cui anche noi crediamo di più, è quello dell'integrazione architettonica. Nel senso che il film sottile già oggi è utilizzato per realizzare vetrate, facciate continue fotovoltaiche, piuttosto che i cosiddetti solar roof, guaine isolanti. Cioè tetti fotovoltaici? Di fatto sì, sono guaine isolanti di materiali polimerici che incorporano le celle fotovoltaiche in film sottile e che vengono usate per l'impermeabilizzazione di tetti o di altri edifici industriali. Ecco, in questi tipi di applicazione il film sottile dà un grande vantaggio. Rispetto al silicio tradizionale, è vero che l'efficienza, il rendimento della cella nominale è inferiore, ma nelle condizioni di irraggiamento non ottimali, quindi grande quantità di luce diffusa e non diretta, quando il sole insomma non si vede, non splende nel cielo visibile, e magari ci sono le nuvole, ecco, certo, condizioni che si incontrano frequentemente nel nord Italia o nelle nostre città densamente abitate, l'efficienza reale delle celle a film sottile si avvicina molto a quella delle tecnologie tradizionali, se non la supera. Quindi in queste applicazioni di integrazione architettonica già oggi è molto conveniente utilizzare queste tecnologie. Grazie Frattini. Grazie a lei, arrivederci. Per oggi ci fermiamo qui, ma domani torniamo per approfondire questo tema dell'integrazione architettonica del film sottile, che apre prospettive molto interessanti per un paese votato al design come l'Italia. A domani.